appuntamento il nostro podcast di fantascienza, e questa volta sarà un attimo su un ambito laterale. Gabriele, infatti, è anche una grande esperta di una scienza esoterica che è l'astrologia. Gabriella, com'è nata questa passione? Che rapporti ci possono essere con la fantascienza e che cosa significa per te? La passione, che non è una passione, è un interesse, è nata in un momento un po' vuoto, nel senso che stavo aspettando un treno in Francia, erano le 4 di mattina e il treno sarebbe arrivato alle 6. Non avevo niente da leggere, ho cercato qualche cosa che non fosse troppo difficile per la mia conoscenza del francese di allora. Il giornalaio però era aperto, devo dire, la stazione di Digione, il giornalaio era aperto a quell'ora di mattina. E così comprai questo testo di astrologia che sembrava facile, insomma, abbordabile, e lo era. Era facile, abbordabile e anche interessante, il che mi spinse a comprarne un altro. Trovai delle coincidenze che mi parevano altrettanto interessanti, dopodiché ho comprato un manuale per fare i conti, cominciai a fare oroscopi a tutti, anche al cane della vicina. Negli anni ho subito ingiurie terribili, gente che mi arrivava davanti con la mano tesa: ah, fai gli oroscopi, allora leggi, è un'altra cosa. E credo di averne fatti 10.000 circa. A quel punto ho pensato che sì, c'erano dei buoni elementi per costruire, non una scienza, non una parascienza, non è una, come si può dire, come la chiamiamo, Sergio? Statistica, io direi una statistica, che come tutte le statistiche ha i suoi limiti, però se tieni i piedi nel forno e la testa in frigo, la temperatura media è ideale.